Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Cambio paese, cambio continente. Cerco di nascondermi tra la gente, ma è la mia di gente che non riconosco. Povera Italia, cosa hai fatto? Hai sbandato e sei in ginocchio. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Povera Italia, canta nel suo ultimo brano Giacomo Lariccia, giovane cantautore in Belgio, la cui storia vi abbiamo raccontato un anno fa a Natale. Povera Italia, cosa hai fatto? Hai sbandato e sei in ginocchio, canta Giacomo, che però guarda fiducioso e dall'estero a quell'Italia che vuole rialzare con coraggio la testa. E il dilemma è proprio questo, tornare o non tornare in questo paese, ora che la storia ci mette di fronte a un bivio, cambiare o morire. È l'amletico dubbio che poniamo oggi al centro della puntata. Lo faremo raccontandovi le storie di due geologi, entrambi emigrati a Londra. Uno di loro è rimasto oltre Manica, dove si è pienamente realizzato professionalmente. Ora guarda l'Italia come a un paese incapace di offrirgli qualsiasi stimolo di ritorno. L'altro geologo da Londra invece è tornato giusto un minuto prima di firmare un contratto che l'avrebbe tenuto all'estero per chissà quanto tempo. Da poco ha deciso di scommettere doppiamente sul bel paese mettendosi in proprio. Una puntata che ci offre un confronto assolutamente stimolante con due differenti visioni dell'Italia. Circa due anni fa ho sostenuto un colloquio con una società italiana e mi sono sentito rispondere che il mio curriculum era troppo ricco per il mercato italiano, cioè in poche parole che dovevo abbassare le mie pretese, ma non solo salariali, ma anche in termini di prospettive. Non ha senso, non ha senso. Daniele Cravino, 32 anni, è un geologo al lavoro nel settore privato in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. La crisi si è abbattuta sui giovani come una scure. In tre anni oltre 1 milione tra loro hanno perso l'impiego, lo afferma il Censis. La percentuale di giovani che decidono di restare al di fuori sia del mondo del lavoro che di quello formativo è in Italia notevolmente più alta rispetto alla media europea, l'11,2% tra gli under 24 e 16,7% nella fascia 25-29 anni, rispettivamente il triplo e il doppio della media. Al contrario, nel bel paese è decisamente più bassa la percentuale di quanti lavorano, pari al 20,5% tra i 15-24 anni e al 58,8% tra i 25-29 anni. Per raggiungere beffa al danno, gli under 35 sono i più colpiti dai licenziamenti. Lo scorso anno ne sono stati toccati nella misura del 38% sul totale. Infine, il 40,9% dei giovani italiani si dichiara propenso a lavorare all'estero. In Italia aumenta il gap tra ricchi e poveri, il reddito si accentra sempre più nelle mani delle fasce più elevate e la mobilità sociale zoppica. Lo afferma l'OCSE, secondo cui il salario medio del 10% della popolazione più ricca del nostro paese è oltre 10 volte quello del 10% più povero. Per Stefano Scarpetta, vice direttore OCSE, negli ultimi anni l'occupazione è aumentata, ma i nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, sono in gran parte di basso livello, bassa produttività, basso salario e poche prospettive di carriera. Il contratto a termine non è più un trampolino di lancio, ma una trappola in cui i giovani restano bloccati. I giovani italiani sono quelli che nel mondo restano più a lungo senza lavoro, hanno i tassi di inattività più elevati. Se si dovesse fare una graduatoria, la carenza maggiore per i giovani è sull'occupabilità. A lanciare l'allarme Carlo Della Ringa, professore di economia politica alla Cattolica. Le imprese che assumeranno donne e giovani under 35 a tempo indeterminato avranno la possibilità di dedurre 10.600 euro. Lo sconto sale al sud, lo prevede l'ultimo decreto anticrisi. La preoccupazione per i giovani è centrale, ha affermato il premier Mario Monti. Le forme più attuali di migrazione, la cosiddetta fuga dei cervelli, registrano un netto aumento delle persone in uscita con una drastica riduzione di coloro che ritornano. I giovani si sentono sempre più liberi di partire e sempre meno liberi di tornare. Il rischio è che si interrompa la circolarità di movimento che ha da sempre caratterizzato l'emigrazione italiana. Ad affermarlo Maddalena Tirabassi, direttore del Centro Altra Italia. Gli studenti internazionali non cadano preda della fuga dei cervelli, ma formino una categoria socialmente e culturalmente rilevante in prospettiva del loro rientro come futuri responsabili nei paesi di origine e contribuiscono a costruire dei ponti culturali, sociali e spirituali con i paesi di accoglienza, lo ha chiesto il Papa. Ancora dal rapporto Censis, il 65% dei diplomati tenta la carriera universitaria, ma tra il primo e il secondo anno di corso quasi il 20% abbandona gli studi. Il tasso di occupazione per i laureati è del 76,6%, all'ultimo posto tra i paesi europei. Con la crisi, l'appetibilità e la richiesta di laureati nel mercato del lavoro è addirittura diminuita e difficilmente i giovani sono chiamati a coprire ruoli di responsabilità in tempi brevi, iniziando i percorsi professionali quasi sempre al di sotto delle loro competenze. Il 49,2% dei laureati al primo impiego sono sotto inquadrati. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un Associate Director specializzato in microeconomia per Standard & Poor's a Londra, scadenza per CV 22 dicembre, info su macroil.com. Un direttore per i programmi europei a CLASP Bruxelles, scadenza per CV 16 dicembre, info a jobs@clasponline.org. E infine ricercatori postdoc al German Institute for Economic Research DIV Berlin, nella capitale tedesca, scadenza per i CV 15 dicembre, info su div.de. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Londra, città calamita di decine di migliaia di nostri giovani professionisti. Nome: Daniele. Cognome: Travino. Età: 32. Città di origine: Albenga. Studi: laureato in scienze geologiche all'Università degli Studi di Milano. Anno in cui hai lasciato l'Italia: gennaio 2008. Per andare dove? Londra. Perché? Principalmente per soddisfare le mie aspirazioni professionali. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono geologo senior. Dove? A Londra. Tornerai? Solo quando professionalmente non dipenderò dal mercato italiano. Follow me to a point of no return. I can make you feel sensation, take you to your destination, take you to the point of no return. Century e Turbo B, The Point of No Return, il punto di non ritorno, canzone non scelta a caso per introdurre la storia di Daniele, anche perché è proprio questo il titolo della prima email che ci hai inviato a giovanitalenti@radio24.it. Tra poco torneremo su questo concetto, partiamo da una tua considerazione. Scrivo da un limbo, il limbo di coloro che, stanchi di un'Italia immobile e affossante, l'hanno lasciata per l'estero e che ora, dopo alcuni anni, si chiedono se ci siano le condizioni e i presupposti per il ritorno. Sospeso tra il desiderio costante di costruire un progetto professionale nel mio paese e l'amara ma lucida consapevolezza di dover cercare altrove. Daniele, tu che vivi in un contesto pienamente meritocratico, di chi è la colpa di questo limbo? Chi ha creato un paese immobile e affossante? Penso che prima di tutto è giusto dire che la crisi attuale è estesa a livello globale, non solo italiano, ma se devo specificatamente guardare all'Italia, punterei deciso il dito sulla nostra classe politica, che in generale è corrotta, anziana, passiva e non competitiva a livello sia di innovazioni che di idee. Iniziamo dai tuoi studi, scienze geologiche all'Università di Milano, laurea nel 2004, cosa ti ha spinto verso una carriera così particolare? Tutto nasce sicuramente da una passione viscerale che avevo, ho sempre avuto per la natura, mi porto dietro fin da ragazzino, e in più c'è sicuramente la curiosità di scoprire e di capire i processi che hanno contribuito e contribuiscono tuttora a modellare l'ambiente che ci circonda. Quale giudizio dai della preparazione accademica nel suo complesso? In generale direi che il bagaglio tecnico e teorico che mi sono costruito all'università mi rende assolutamente competitivo con i miei colleghi sia europei e asiatici. Ciò che latita purtroppo sono i maggiori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, in modo da capitalizzare questa nostra eccellenza accademica, e poi efficienti canali di collaborazione tra università e settore privato. Arrivato il tanto sospirato titolo di laurea, ti trovi davanti al primo bivio: dottorato in università o mercato del lavoro? Scarti la prima ipotesi, opti per la seconda. La scarti perché sconcertato. Spiegaci il motivo. Il dottorato essenzialmente non ti assicura quella minima indipendenza economica a cui tanto aspiri dopo 5 anni di studi universitari. Si usufruisce di solito di una borsa che si aggira intorno agli 800-1000 euro, con la prospettiva di diventare un giorno ricercatore e forse poi professore universitario. A quel punto vai su una carriera nel settore privato, due importanti esperienze, tra le altre come ingegnere geologo, in altrettante aziende italiane, una familiare con forte proiezione sulla penisola, l'altra con maggiore proiezione verso l'estero. Ma, e la cosa mi ha sorpreso quando l'ho letto, l'analisi complessiva non cambia. Dunque, è facile trovare lavoro in Italia, e che tipo di lavoro? Da neolaureato devo dire che è difficile e implica ingoiare tantissimi bocconi amari. Parlo di raccomandazioni, precariato, salari nulli, ruoli avvilenti, esattamente l'opposto di quello che succede qui in UK. I laureati godono di eccellenti canali di collaborazione tra mondo accademico e industria, e questo significa che si ritrovano ad essere assunti a tempo indeterminato ancora prima di completare gli studi, quindi indipendenza economica a 22 anni. Traducendo in termini concreti la denuncia che hai fatto, partiamo da salario e tipologia di contratto. Cosa vivi qui in Italia? Farò parlare i numeri invece delle parole. Da neolaureato ho lavorato a partita IVA per più di un anno a 500 euro al mese, spese incluse. Spese incluse. A 3 anni e mezzo, 4 anni dalla laurea lavoravo ancora a partita IVA per 1200 euro al mese, quindi devo dire, indipendentemente dal grado di responsabilità di formazione, ero in assoluto la figura meno pagata in cantiere e le prospettive di carriera erano virtualmente nulle. Daniele, chi va avanti in Italia? Perché e come prevale quella che definisci la nauseante ed avvilente pratica della raccomandazione? Penso che il sistema italiano è socialmente ingiusto e antimeritocratico. C'è un nepotismo cronico, soprattutto all'interno delle istituzioni pubbliche. Non c'è mobilità sociale, concorrenza, perché alla fine non si premia la competenza. quindi ti dirò, Sergio, le raccomandazioni ci sono anche in UK, ma sono l'eccezione, qua in Italia sono la regola. E poi magari in UK si segnala, anziché raccomandare, che è un concetto ben diverso. Il tuo è stato un vero e proprio peregrinare lungo la dorsale della penisola, da Milano alla Liguria, a Roma, eppure sempre la stessa immagine, un paese senza vento, in perenne colpevole bonaccia. Allora, Daniele, cosa imbriglia la nave Italia? Cosa impedisce ai suoi giovani più meritevoli di farsi classe dirigente? Purtroppo abbiamo una classe dirigente e politica che è obsoleta, è praticamente un'elite che si autoreferenzia senza soluzione di continuità. Quello di cui avremmo realmente bisogno sarebbe ricominciare da una leadership giovane, con una visione più globale, attiva, preparata e non intossicata da quegli interessi personali che alla fine spesso contrastano con quelli dell'Italia. A quel punto scatta la ricerca di un'alternativa, alternativa che passa attraverso un incontro fortunato. Allora ci racconti come sei stato selezionato per la tua avventura oltre maniche e come si fa a trovare impiego all'estero? Semplicemente adattato il mio curriculum allo stile britannico e poi ho fatto tutto sul web, quindi ho avuto un colloquio preliminare telefonico dall'Italia con le risorse umane, poi un faccia a faccia tecnico qui a Londra, ma devo dire che un punto fondamentale è l'inglese. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Londra è stata la mia meta, qui mi sento all'apice delle mie potenzialità. Ambienti di lavoro stimolante e meritocratico, dove non si soffoca l'iniziativa e non si premia il privilegio. Qui ho trovato regole trasparenti, meccanismi di selezione espliciti, politiche e programmi di sviluppo in grado di promuovere opportunità, investimenti sulla formazione anche in periodo di crisi. Daniele, allora, un altro mondo è possibile? Un mondo dove si premiano i migliori e non i più furbi o arrampicatori? Assolutamente possibile, però vorrei essere chiaro su questo punto: nessuno ti regala niente. Ah no, è vero, devi assolutamente comunque lottare per soddisfare le tue aspirazioni, c'è molta concorrenza. La differenza però è che ti senti artefice del tuo destino perché c'è meritocrazia, quindi è difficile trovarti le porte sbarrate da qualche figlioccio di papà la cui famiglia siede sulla stessa poltrona da magari tre generazioni, e quella poltrona è la tua portata chiaramente se hai le qualità per occuparla. Vince il migliore, è il principio della libera concorrenza, però quella vera. Da 4 anni lavori per una multinazionale di geoingegneristica, di cosa ti occupi esattamente? Mi occupo di valutazione e stima del danno indotto da opere di escavazione su edifici e strutture esistenti e progettazione di sistemi di monitoraggio geotecnico e strutturale. Daniele, uno dei tanti paradossi italiani sta nel fatto che ottimi professionisti come te lavorano all'estero mentre il tuo paese frana tragicamente ad ogni alluvione. Un recente articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera denunciava come il famoso piano contro il dissesto idrogeologico varato dall'ultimo governo Berlusconi non sia mai partito, mentre il Ministero dell'Ambiente ha quasi azzerato gli stanziamenti ordinari per tenere sotto controllo il rischio. Il paese per anni dunque nel caos totale mentre i giovani geologi emigravano. Ma come ci siamo ridotti in questo stato? Non dovremmo essere un punto di attrazione internazionale per i geologi? Da geologo originario della Liguria, vedere l'immagine delle Cinque Terre spazzate via dal fango mi hanno fatto provare tanta rabbia. Purtroppo l'intera regione per propria conformazione è molto esposta al rischio franoso e l'intero processo di prevenzione e gestione di questo rischio si è dimostrato inefficace. Tu poni giustamente il dito anche nella piaga del rientro, appartiene alla schiera di espatriati che vorrebbero poter tornare a dire la loro. Passiamo a un tema molto interessante, il potenziale di attrazione del sistema Italia verso giovani professionisti dalle competenze internazionali, sia italiani che non italiani. Il sistema Italia dal punto di vista professionale ha un potere di attrazione che definirei nullo, sia per italiani in area di rientro che per gli stranieri. E ti dirò di più, circa 2 anni fa ho sostenuto un colloquio con una società italiana e mi sono sentito rispondere che il mio curriculum era troppo ricco per il mercato italiano, cioè in poche parole che dovevo abbassare le mie pretese, ma non solo salariali, ma anche in termini di prospettive. Non ha senso, non ha senso. Sono scappato dall'Italia, scrivi a giovanitalenti@radio24.it, senza nascondere la verità. Fuggito dalle umiliazioni, da un sistema malato che non vuole cambiare, da un ingranaggio intoppato. E il punto di non ritorno di cui parlavamo all'inizio, forse te lo sei già lasciato alle spalle. È un addio definitivo e in quanti come te? Mi piacerebbe tanto tornare in Italia a vivere perché mi manca il mio paese, ma questo succederà solo quando sarò riuscito a costruirmi un progetto professionale che mi consente di non dipendere dal mercato italiano. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Vedo un paese con un potenziale enorme, che però è ingabbiato da una mentalità retrograda e da una casta di intoccabili. Quindi è come una Ferrari guidata a passo d'uomo da un anziano senza visione e prospettiva. Quello che c'è, di cui c'è bisogno, è rompere questi equilibri conservatori e promuovere economia e crescita. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Daniele Cravino, 32enne geologo a lavoro in una multinazionale di progettazione geoingegneristica a Londra. Daniele vi ha approdato dopo una laurea in scienze geologiche a Milano, cui hanno fatto seguito 4 anni di lavoro nel bel paese, sia in aziende familiari che in imprese con proiezione internazionale. Ma l'analisi alla fine è sempre la stessa: precariato, prospettive di carriera nulle, salari ridicoli, scarsi investimenti in formazione. All'inizio del 2008 risalto oltre manica, termine di una procedura di selezione strutturata facilitata dall'esistenza di un mercato del lavoro fiorente. Da Londra Daniele osserva un paese il suo, senza vento, in perenne colpevole bonaccia. Il punto di non ritorno in Italia lui l'ha probabilmente oltrepassato. E quanti come lui, viene da chiedersi? Ci raggiunge ora in linea Davide Albricci, 33 anni, cotitolare di uno studio associato specializzato in geologia e ingegneria. Buon pomeriggio Davide. Ciao a tutti, buon pomeriggio. La tua storia mi ha lasciato a bocca aperta quando l'ho letta. Tra poco capiremo perché. Anche tu ora 33enne, laureato in scienze geologiche a Milano, anche tu hai lasciato perdere la carriera universitaria per lavorare nel privato e anche tu, come Daniele, sei poi emigrato in Gran Bretagna alla caccia di un contratto serio. A differenza di Daniele, però, mentre stavi per firmare un contratto oltre manica, hai mollato tutto e sei tornato. Cos'era successo nel frattempo? Non era successo niente, ma trovare lavoro a Londra era stato abbastanza facile, mentre mi veniva offerta un'occasione in Italia che non si sarebbe mai più ripetuta. E quindi ho deciso, per un po' di ragioni tecniche, che era un treno da prendere al volo. E alla fine del 2008, dopo aver firmato il contratto, ti trasferisce a lavorare in uno dei più grandi cantieri d'Italia, in una delle gallerie più difficili del tratto appenninico. E allora soprassediamo sulla parte tecnica del lavoro e facciamo un salto in avanti di 3 anni. All'inizio del 2011, quale lampadina ti si accende in testa? Perché, grande o piccola che sia l'azienda in Italia, le logiche sono sempre le stesse. Non c'è possibilità di carriera sia nella piccola che nella grande impresa, gli stipendi sono perennemente bloccati e non c'è prospettiva di crescita, vedi delle disparità di trattamento tra te e qualcun altro che ha dei canali preferenziali sempre molto forti. Però è pazzesco, nel pubblico e nel privato. Sì. L'unica possibilità per ritagliarsi un destino diverso è farsi qualcosa per i fatti propri. Ed è qui che arriva la svolta, a quel punto la scelta che ti cambia la vita, metterti in proprio aprendo uno studio associato. Allora, come ce l'hai fatta e dopo quasi un anno ne valsa la pena? Non so ancora se ce l'ho fatta, le cose vanno benino, stiamo crescendo, per il momento sì, ne valsa la pena perché ogni piccola soddisfazione è una tua soddisfazione e vale il tuo lavoro, vale la tua qualità, la tua professionalità e non un nome che ti porti dietro, una raccomandazione, un qualcosa di questo genere. Io ammiro molto lo stai facendo Davide, ci vuole molto coraggio. Sì, grazie. Si parla molto di liberalizzazione nel settore delle professioni, anche per abbattere i muri che sembrano sempre più invalicabili per i giovani. Il Consiglio Nazionale dei Geologi contrasta invece questi tentativi e lo fa, sostiene, a difesa di voi, giovani. Qual è la tua opinione personale, sì o no al potere delle corporazioni? Lavoro in quest'ambito solo da un anno. Però il fatto di essere iscritto a un ordine ad oggi non mi dà nessun vantaggio, non mi dà nessun plus valore e nessuna assicurazione rispetto ai miei concorrenti. È solo una gabella in più da pagare a un ente la cui funzione mi rimane ancora per il momento misteriosa. In Gran Bretagna cose del genere non ci sono? Ma non credo proprio, insomma, sono stato lì abbastanza poco, ma penso che siano associazioni tra privati che scelgono di seguire determinati standard di qualità, ma a cui uno può decidere liberamente di iscriversi oppure no, non che uno deve iscriversi per poter esercitare la professione. Davide, quando sei tornato in Italia ti sei detto comunque a Londra lavoro per me ce ne sarà sempre, allora l'uscita di emergenza è sempre pronta oppure senti di poterci credere ora nel tuo paese? L'uscita di emergenza è sempre pronta, però per ancora un po' voglio crederci, voglio credere che se sei giovane, intraprendente, in gamba e motivato, anche in Italia ce la puoi fare. Davide, io ti faccio un enorme in bocca al lupo e spero che tanti seguano il tuo esempio. Credi. Domanda finale, di rito per Daniele Cravino. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Se il tuo inglese è fluente, il mio consiglio è di non pensarci due volte. È un'esperienza che comunque ti arricchirà e aprirà i tuoi orizzonti. Quanto riguarda la meta, se sei un geologo o un ingegnere, non mi concentrerei sull'Europa al momento, ma ci sono interessanti opportunità in Canada, Australia oppure sui mercati emergenti come quello indiano. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi vi parliamo di un volume da poche settimane in libreria che ha messo per la prima volta a confronto la vecchia e storica emigrazione italiana con quella più recente dei giovani talenti. Ce ne parla l'autore Stefano Pelaggi. La continuità è che sicuramente tanti italiani continuano ad andare fuori dai confini nazionali. Le differenze invece sono tante. Innanzitutto le condizioni oggettive e strutturali dell'Italia, che